And my name is Ragnar Pfizer. Eccoci. Ragazzi, siamo giunti al 29 giugno. Eh sì. Questo è Controradio innanzitutto, per chi si è messo in ascolto in questo momento. Ragnar Pfizer, come tutti i lunedì, alle 21 alle 21:30. Via, vada, giusto perché è l'ultima puntata. Sì, dai. E questa è l'ultima puntata, purtroppo. Vabbè, come tutti, ragazzi, gli anni. Come tutti gli anni, noi con giugno decidiamo di prenderci una pausa. Sì. In ogni caso, comunque, continuate a seguirci sulle nostre pagine, perché vediamo se durante l'estate. Durante l'estate vi deliziamo con un po' di roba. Mette su qualcosa, qualche mixettino. 0557399933 è il nostro classico numero di telefono, se ci volete chiamare. info.ragnarpaisa@gmail.com ragnarpaisa.net è il sito dove potrete andare da domani tardo pomeriggio a scaricare anche il podcast di questa puntata, tutti i podcast precedenti, mix, beat tape, eccetera, tutto quello che fa parte del nostro mondo. Magari il prossimo anno troveremo qualcuno che pronuncia il nome di questo programma. Ci si farà dopo 5 anni. Oppure magari, che ne so, quest'estate decidiamo di cambiargli nome definitivamente e di dargli tipo Franco. Così non dovrò più sopportare la gente che sbaglia il nome di questo programma. Questo è Colossius che mixerà per voi la prima parte. Ci sentiamo tra poco. Right now, Piper.

mi dispiace entrare così, capito? Un po' a spregio sopra mentre andava sto pezzone. Allora, volevo dire un po' di cose sparse, diciamo. Allora, diciamo subito di queste due serate. Una stasera, come tutti i lunedì, Disco e Cultura all'Off Bar, qua alla Fortezza d'Abbasso, insomma, il laghetto della Fortezza d'Abbasso. Il caro Biga ospita stasera Claudio Capitoni e Danilo Lenzi. Quindi chi vuole passare, i ragazzi sicuramente sono già lì a quest'ora e andranno avanti fino, insomma, abbastanza tardi. Quindi chi vuol passare all'Off Bar troverà loro. Mercoledì invece, come tutti i mercoledì, ennesimo appuntamento di Summer Vibes con Bampai, sempre al Life Club in via dell'Erta Canina, vecchio cargo. Dette le serate, diciamo un attimo dell'uscita dell'amico Bob Singlier, che è roba di maggio in realtà, quindi sì, siamo arrivati un filino lunghi, ma neanche troppo. No, sì, alla fine il disco si inizia a trovare dal non troppo. Esatto. La prima uscita su Best Company, questa nuova etichetta che lui stesso insieme a altre persone comunque del giro che chi conosce un po' e segue, Bob Sinclair, Really Swing, Kiroga, 291 Out, tutta quella gente là. Questa nuova etichetta si chiama Best Company e la prima uscita appunto è di Bob Sinclair, è un disco veramente bello, è la prima traccia che ho suonato, quella per capirci, per chi lo ha riconosciuto con il campionamento di Suspiria, di Dario Argento, e tutto il disco è comunque molto particolare, molto interessante e fresco. Merita. 12 pollici, 8 tracce. Un LP a tutti gli effetti. Esatto, andatevela a cercare perché insomma sicuramente ancora si trova, però vedo che insomma in diversi negozi già sta out of stock, quindi boh, chi se lo può prendere, come sempre si dia da fare. Detto ciò, facciamo andare Duccio e poi ci risentiamo più tardi. Oh, pronto? Ma che fine facisti? Ma la settimana che ti cerco. Capisci che andavi problemi, cose, però sparisti. E fatti a sentire, cazzo, che se non ne risolvivi i cosi. Ciao. Vedo la chiamata per l'ennesima volta, l'ennesima svolta mancata, l'ennesima fase marcata, yes. Pronta all'imbarcata, chiama Sam Prozac. La mia coscienza se n'è andata, yeah. Ti ho parlato come fosse adesso, mi ricordo mi è rimasto impresso. Ho un appuntamento ma non mi presento, di vederti io non me la sento. Data, ora, luogo, dati, ora, fuoco, fatti, suora, occhio, il fatto, suona, molto, anche, capo, volto. Lo chiamo e per nome, ci penso e mi chiedo, lo vedo e mi dico, mi fermo e mi dice, lo chiamo e per nome, ci penso e mi chiedo, lo vedo e mi dico, mi fermo e mi dice, a posto, due secondi scrosto, sposto l'asta giusto, per come mosto, mostro, fresco quando sosto, presto come mosto, il mondo è mio e non è nostro, no, non ti conosco, passo io per stronzo, non mi abbasso, non ti voglio avere addosso, ti lascio trompio, gonfio, lasso, grosso, posso, ti mando a spasso come soccorso, brutto muso, cane corso, brutto conto, avermi contro, pronto, sì, ma soccorso, beviti il caffè, ferma l'incontro, da dirci, peraltro, non ci è rimasto molto, no, ambiguità, fatalità, la personalità, ma responsabilità, non me ne addosso. Un giorno ripenserai l'incontro, ti mangerai la palla sputandomi il rimorso. Lo chiamo e per nome, cazzo fa, ci penso e mi chiedo, cazzo se, lo vedo e mi dico, mi fermo e mi dice, lo chiamo e per nome, cazzo fa, ci penso e mi chiedo, cazzo se, lo vedo e mi dico, mi fermo e mi dice. Sono leggero come il polline in aria, e più passa il tempo più la vita rincara. A 16 anni con le torce lungo le pareti di roccia, ora che nel doppio scrivo il doppio di moccia. La vuoi la bella, che un po' mi schiaccia, mascherate di continuo mi rimpiazzano la faccia. Dopo tutti questi pezzi, questi beat, dovrei avere fame di carcasse grosse come Moby Dick. e tu non mi capisci, ho carne fra i canini. Non posso stare qui per distare ragazzine se mi passi in consegna. Io do le dimissioni al mio plotone che non si rassegna, né si rasserena. Seguo il canto della sirena, incanto serpi che m'avvelena. No, non ha più senso aver flow. Ora ti spiego se mi piego su me stesso e poi mi apro sopra il suono, mi incateno. Sono pesante come piombo nei polmoni, fuori dagli schemi tra problemi e situazioni. Soluzioni, non rompetemi i coglioni, si fa come il Baglioni, aprimi bagliori tutti quanti fuori. Mattino in bilico, la notte lascia torme di fantasmi a richiamarmi dall'empireo. Papiro liquido, declino timido, tiro l'epilogo, destino misero ma vivido. Dall'aldilà del male che è perimetro, periscono gli dei perché gli uomini li uccidono e deridono all'unisono. Mille vie per me e per quelli che le vivono, pace sul cammino intimo, perfuso igneo. In verità è solo un altro giorno insipido, e per come lo specifico, con un flow magnifico, significo spessore per le ore della lotta. Magnifico, con la testa in piena botta, botta, botta, botta. Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Now he's a super cat man, are you a dandada? Dandada. after. Tell me what I'm after. Once again, it's the real ill microphone enhancer. Smoking MCs till I die from lung cancer. The phase is in my hand, but I'm not afraid to shoot ya. Nobody can see me, I am the future. So you know that no one could ever hurt me, because I'm ill. Like what? Like herpes. And I really don't give a damn who you are, Mr. Funky Man. All hail, got my funky law. Now in 1985 is when I first started to rock, trying to do the human beatbox like mention Kennedy Watch International Scorpion. Don't worry yourself, man. Tatter and the crew, watch it. I'm bad boy. Shanks man a lead the gunshot them go. Sing him a lead the gunshot them go. Kenny Dope him a lead the gunshot them go. Tatter a lead the gunshot them. Watch it. Eddie the DJ say nobody say them a chant. Tap up at the paper, some of them a fire clock. Tap up them a super, some a say that them a notch. They nothing but a bunch of literate TV. You give a little youth a gun and them can fire dead. A baby in a compass, even them can lick a shot. It takes a man to be a man, but try and test and watch and talk. It face to face, when I have a behind me back. You catch him this to face, you don't have a gun for lick a shot. And then him fire up like a pussy and an easy motherfuck. Idiot, why shut your mouth and quiet? Listen to Shaggy, run him out, me a chat, watch him. Respect you to article, bad man. Original get Oriol, serve 20 sentence. Good man, them he could it, and them in a bomb. Now them turn big man, then them on your car down. But you have some little of become a gun man. Hunger time, the fire shot is in a dance session. They want a little fame and some recognition. Why you just a pussy trying to be a big man? Idiot, why shut your mouth and quiet? Idiot, why you be gully, don't chat? Shaggy get the gun and that's a gun chat. Go, Sting get the Glock, that's a gun chat. Go, Cool get the Glock, that's a gun chat. Go, Kenny do pop the Glock, that's a gun chat. Go, Fat Terry get the gun and gun chat. Go, bring it here so you have to get flat. Gun chat. You must lose. We know. Which way you're going? We know. Which way you're going? Brothers on the slide. What you gonna hide? Innanzitutto, visto che è uscito da un paio di settimane, però purtroppo non ne avevamo ancora parlato perché avevamo avuto la settimana scorsa ospite David Love Calò, mentre quella prima avevamo avuto Manu DJ e Umberto Saba, avevamo suonato un po' di robe dell'Archeo Recordings, però è già tipo tre settimane... due settimane che è uscito Oligarchia a cura di Osaka, che è questo progetto sul quale c'è un po' di mistero, però insomma c'è dentro Fiume e Spreco. Voi non dovete far altro che andare su soundcloud.com/fiume scritto con due F e due E, e vedete che uno delle ultime playlist è Osaka e ve lo potete scaricare in free download. Questo vi basta sapere. Poi è uscito già da una settimana, è online il mixino numero 5 per Fuck the Glory Days, e a questo giro l'ho fatto io. Fuck the Glory Days, insomma, chi ci segue lo dovrebbe conoscere, chi non ci segue non deve fare altro che andare su fucktheglorydays.tumblr.com. Andate da lì, vi beccate il link, o comunque andate sulla pagina SoundCloud di Fuck the Glory Days, dove ci sono anche tutti gli altri mix. Il primo è di Leonard, poi ce n'è uno di GSQ, e un altro è di Odino, eccetera eccetera. Sempre cose che riguardano, diciamo, un po' noi fra virgolette, visto che comunque nelle ultime puntate è andato online un sacco di roba. Se andate su Killabros TV potete recuperare, proprio se andate su killabros.tv sul sito vi appare proprio come pop-up la registrazione video della serata che c'è stata al Move On. Quando Andrea? Tre settimane fa, giusto? Sì, sì. Tre settimane fa, ospite Kazuma e me. E quindi insomma vi trovate diviso in file video / audio, chiaramente. Ovvio. lo streaming della serata bomba che c'è stata al Move On, che è, vi ricordiamo, questo fantastico negozio di dischi davanti al Battistero in piazza San Giovanni. Bene, non c'è da dire altro se non che salutarvi. Tommy concluderà quest'ultima puntata, quindi rimanete comunque connessi fino alle 22:30, dopodiché Benedetto Ferrara e le sue fantastiche farfalle. Rimanete comunque connessi tramite le nostre pagine social di Ragnan Paisa su Facebook e ragnanpaisa.net, giusto Andrea, che magari quest'estate cercheremo di fare qualcosa per colmare il vuoto. Sì, un po' di mix, qualcosa per rinfrescare la memoria. Chiaramente ci sarà, cioè io non ci siamo ancora sentiti, però sicuramente come tutte le estate ci sarà il mix estivo dello Zach. Certo, deve. Quindi ora Zach, non ci siamo ancora sentiti, però ti facciamo la richiesta ufficiale che anche quest'anno abbiamo bisogno del tuo mix estivo. Un saluto allo Zach ed Anna in quel di Berlino. Questo è Tommy e noi ci sentiamo prossimamente. Ciao. Control radio. ragtime piper, control radio. Csodát, neked adhatok, csak érezd azt, hogy miattad remélek. Minden napom, neked adhatom, csak érezd azt, hogy mindig érted élek. És mondják mesét a szívem, mondják mesét, ami kettőnk életét. Oh, yeah. Das montanhas trouxe um rosário de contas, monges brancos dentro da estrela de pontas. Das montanhas trouxe um rosário de contas, monges brancos dentro da estrela de pontas. A estrela vai brilhar no azul da nova era, mas se não acontecer, faz de conta. Ervas brotam cerebrais. Quem não viu hoje nem antes, talvez não verá jamais. Verá jamais. Her kışın var bir baharı, her akşamın var sabahı. Yeter artık bırak ahı, yeter artık bırak ahı. Gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle. Yeter artık bırak ahı, gönül sabreyle sabreyle. Sabreyle, sabreyle, gönül sabreyle. Müzik. Magnum Piper Control Radio. I'm Yeter artık, bırak artık.